una volta, più spesso negli sketch e nelle barzellette che nella vita reale, ma forse anche in quella, Viracondo, posto di fronte all'oggetto della sua rabbia, esplodeva in un grido caratteristico: tenetemi. Poteva trattarsi della reazione di un padre severo all'ultima marachella di un figlio discolo, della conclusione di un dibattito andato un po' sopra le righe, della risposta a un'accusa ingiusta e malevola o a una mascalzonata particolarmente odiosa, ma la mossa retorica era sempre quella: tenetemi, se no l'ammazzo. Aiutatemi, vi prego, a non fare uno sproposito. Serviva al tempo stesso a sottolineare la gravità dell'offesa subita, e una gravità che avrebbe giustificato la più rude delle rappresaglie, e a invocare la solidarietà degli astanti, nonché a manifestare al tempo stesso la rinuncia a un uso pur così giustificato della violenza. Chi gridava tenetemi in realtà non aveva la minima intenzione di passare le vie di fatto contro chi l'aveva offeso o disgustato, ma preferiva attribuire agli altri la responsabilità relativa. Il fatto, cari amici, che il mio onore sia stato ferito, che la mia autorità sia stata messa in discussione, richiederebbe, come senz'altro saprete, la più severa delle ritorsioni. Ma tanta radicalità comporterebbe delle conseguenze che non mi sento di affrontare, per cui tocca a voi, che mi volete bene, ridurmi a più miti consigli. Tenetemi dunque, perché mi approvate. La mossa sembra ripresentarsi sempre più spesso nell'argomentare del presidente Berlusconi. Soprattutto sulla vexatissima questio del taglio delle tasse. Anche lui ha preso l'abitudine di giocare sullo scarto tra quello che lasciato a se stesso farebbe e quello che amici più o meno benintenzionati gli lasciano fare. E poco importa, in fondo, si usa l'argomentazione in forma speculare, nel senso che non dice naturalmente tenetemi se no taglio le tasse, che sarebbe, credo, un discreto sproposito, ma preferisce spiegare che lui le tasse le taglierebbe, anzi le avrebbe già tagliate, se non ci fossero i suoi soci di maggioranza a tenere. Sia pure in forma di deprecazione, quindi, e non di invito, anche Berlusconi, come Viracondo della barzelletta, separa i meriti dalle responsabilità. Lui vorrebbe tagliare le tasse, per questa volontà va apprezzato, ma gli altri glielo impediscono e su di loro deve dunque cadere ogni biasimo. Politicamente il discorso regge solo a un certo punto, perché è ovvio che in un governo di coalizione la responsabilità deve essere solidale tra tutte le forze coalizzate, e che anzi spetta proprio al Presidente del Consiglio farsene garante e promotore, ma a queste raffinatezze dialettiche il nostro è sempre stato piuttosto allergico. Lui sa che le promesse non costano niente, ma se adeguatamente pompate possono sempre rendere qualcosa, e tanto gli basta. Il che significa, se ci pensiamo bene, che su quelle promesse noi possiamo tranquillamente fare una croce. Anche il presidente, come quelli da Condola, a pensarci bene non ha la minima intenzione di fare uno sproposito, lo tengano o non lo tengano. In tema di tasse qualcosa magari farà finta anche di tagliare come preludio alla campagna elettorale, ma persino lui sa che la pressione fiscale sui cittadini resterà la stessa, perché con i tempi che corrono tagliando di qua si deve sempre aumentare di là, e financo la sua amatissima abolizione della quarta aliquota è destinata a restare un gioco di parole grazie all'introduzione di un contributo etico provvisorio che suona certamente meglio, ma stringe la stessa cosa. Come tutti quelli che invocano la responsabilità altrui, il Silvio Nazionale è occupatissimo amministratore delle iniziative proprie. Lui è uno che parla molto e fa poco, e che tra l'altro è piuttosto confortante per noi, perché sappiamo che quando fa sono quasi sempre disastri, e bisogna proprio tenerlo.